te va con el culo. Con tese, da el paese. Vamos tese, te da el tese. Con la tese, va con el culo. Thank you.